Raffaella Di Marzio, buongiorno. Buongiorno. Raffaella Di Marzio ha scritto un libro, Nuove religioni e sette, la psicologia di fronte a nuove forme di culto, edizione Magi. Raffaella Di Marzio c'è stata 14 anni a studiare questo fenomeno, quindi probabilmente può farci un quadro più esatto. Innanzitutto, mi scusi, chiariamo questa cosa all'inizio, se no ci sfrondiamo nel luogo comune. Ne vorrei sembrare io un difensore a spada tratta dei culti ufficiali. Esiste una radicale differenza fra chi appartiene, segue anche con dedizione e costanza un culto religioso e chi invece va in una setta. Il problema è questo, il problema è proprio la definizione di setta, che non è concordata. Dunque, per quanto mi riguarda, io ritengo che esistano delle derive settarie in tutte le religioni. E questo abbiamo detto, certamente. La differenza sostanziale, secondo me, consiste in questo. La persona che aderisce a una religione, anche se fa grandissimi sacrifici, e anche se i suoi vicini di casa o parenti non condividono quello che fa, anche se fa delle cose strane, lo fa liberamente, per libera scelta, senza nessuna costrizione di tipo psicologico. La persona che invece entra in un gruppo settario, inizialmente entra non sapendo, perché la prima cosa che succede è questo: la setta non dice chi è veramente, cioè non dice tutto, comincia intanto a nascondere molte cose a quelli che entrano. E questo nelle religioni, tra virgolette, istituzionali ufficiali non si fa, perché è tutto chiaro. Quindi innanzitutto uno entra senza sapere esattamente dove sta andando. Poi, una volta entrato, i segreti vengono rivelati molto lentamente a seconda del suo grado di coinvolgimento. Per cui alcune cose che all'inizio uno non accetterebbe mai, in seguito, dopo essere stato abbondantemente condizionato, impara ad accettare anche le cose più strane. Quindi c'è l'illusione di un cammino di perfezionamento che via via che si progredisce si acquisiscono i segreti del grande sapere immenso della setta. Esatto, e contemporaneamente a questo vengono messi in atto dei meccanismi di influenza indebita, così definiti, sia da parte del leader che del gruppo, che fa quadrato intorno al nuovo entrato e crea intorno un clima emotivo per cui il nuovo entrato si sente veramente bene, cioè si sente accolto, si sente accettato. Se questa persona è sola, ha dei problemi, è in difficoltà, è molto facile che a questo punto, in un certo senso, metta la propria vita in mano a questo gruppo, a questa persona della quale si fida ciecamente. Infatti, Raffaella Di Marzio, per l'esperienza che ho io professionale, le persone che maggiormente sono vittime di una deriva così importante alla loro vita escono sempre da una grande delusione d'amore o da un matrimonio fallito o da un lutto improvviso, da un figlio scomparso, da un dolore immenso della propria vita, o un licenziamento, o finisce il lavoro, o un grande esaurimento, un momento di depressione. Quello momento in cui improvvisamente ci si accorge che ci sono degli amici, c'è gente disposta a darci affetto, a darci solidarietà, ci vengono a casa tutti i giorni, improvvisamente si crea una catena affettiva attorno a noi che non ci sembra vero, però molte volte è l'inizio dell'entrata nella setta. Non a caso, non voglio fare nomi, ma molte organizzazioni con schemi simili hanno per esempio una rete capillare nei portieri di palazzi e di stabili, che sono i primi a sapere cosa accade in quel palazzo, chi sta male. Il problema è questo: la setta dà tutte le risposte. Quando una persona non ha serenità e la ricerca, all'interno di quel gruppo si fida ciecamente di chi ne è a capo e qualsiasi problema, qualsiasi dubbio, qualsiasi difficoltà delega e continua a delegare fino a che alla fine non decide più nulla. Questo da una parte toglie alla persona la libertà, dall'altro dà il notevole vantaggio di eliminare lo stress dall'esistenza, che è una delle cose che ci fa soffrire di più. Ma uno non deve scegliere più, sta tranquillo. È sereno, cioè... è veramente. È una sorta di serenità che alcune volte assomiglia a quella che è di una persona che si è appena drogata. Alcune volte si sente dire: ma questi prendono droga. Io posso assicurare che non è vero, ci sono alcuni gruppi dove si usano queste sostanze. Diciamo che lo psicofarmaco so che certe volte viene consigliato in maniera impropria. Ma guardi, sono pochi i casi, perché in questo caso invece a livello psicologico funziona tutto benissimo, come se fosse una medicina. Io non vorrei che tutta la discussione vertesse su quello che accade dentro la setta, anche se è molto importante. Io vorrei che noi ci chiedessimo anche cos'è accaduto nella famiglia di quella persona, nel contesto sociale di quella persona, nella chiesa di quella persona, perché quella persona si sentisse sola e poi cercasse altro. Perché il problema è sociale, non è soltanto il momento di difficoltà, come giustamente lei diceva, è anche ciò che c'è dietro la persona. Se un cattolico entra in una setta, c'è da chiedersi: cosa c'è stato che non è andato? Qual è stato il problema della chiesa di riferimento di questa persona? Perché nella chiesa di riferimento non ha trovato ciò che cercava? Io però devo dire onestamente, può anche esistere una visione laica della vita in cui uno non ha questa istanza spirituale così forte, fa parte della varietà dell'umanità, può anche vivere serenamente senza porsi problemi rispetto all'assoluto. Ci sono persone che vivono tranquillamente e non hanno bisogno di entrare nelle sette e nemmeno hanno bisogno di andare in chiesa, hanno la loro vita raziocinanti laici e non gliene importa nulla. Quindi non è solamente, non lo so, le domando a lei, un vuoto dal punto di vista delle istituzioni religiose ufficiali, o forse sì, o forse ha ragione lei, un'istanza spirituale forte, se non trova soluzione, non trova risposte in quella che l'organizzazione tradizionalmente adeguata a rispondere a queste esigenze, vanno a cercarle altrove e sfociano in degli orizzonti che per loro molto più pericolosi che semplicemente andare in parrocchia. Però sono appaganti, sono molto più appaganti. Non solo questo, ma per quanto riguarda per esempio i giovani, c'è da chiedersi anche perché tanti giovani cercano dei gruppi di riferimento del genere, e c'è da chiedersi se dietro questi giovani esistono dei gruppi di riferimento che forniscano, che propongano valori validi. Ci sono ancora delle famiglie che sono gruppi di riferimento? Ci sono ancora delle famiglie che propongono valori, che dialogano con i propri figli? O i nostri figli alcune volte vanno a cercare fuori quello che avremmo dovuto dare noi? Cioè, non so se riesco a spiegarmi, il problema non ho capito, è sociale, è complesso, è questo. Lei è possibile, dal suo studio, dalla sua analisi, so che le radicalizzazioni sono sempre carenti, ma avere una tipologia di riferimento, quando noi parliamo di sette, lei adesso l'ha focalizzata giustamente sui giovani che sono gli elementi più a rischio, ma guardi, io conosco signore e signore cinquantenni che nel momento in cui la loro vita dovrebbe essere abbastanza assestata fanno dei cambiamenti radicali, improvvisamente non si capisce cosa succeda, sorridono sempre, sono sempre amichevoli o sono di una depressione terribile, fanno discorsi strani, si aprono nuovi orizzonti. Secondo me è abbastanza largo il campione, però lei cosa ha dedotto? Allora, non c'è un'età, diciamo, particolarmente debole rispetto a un'altra. Tutte le età, tutti noi attraversiamo nelle diverse fasi dei momenti di crisi. Quindi gli appartenenti a questi gruppi sono spalmati su tutte le età della vita, ma ci sono anche delle persone anziane che vengono, diciamo così, contattati a 75-80 anni, alcune volte anche per motivazioni economiche. Perché è il momento che possono sganciare un po' di eredità, è chiaro. Ma anche in questo caso io mi sono trovata… Oddio, l'ha fatto anche tanto i parroci di campagna. Guarda, io vengo da una terra arida e selvaggia, ma sì, conosco questo metodo dell'avvicinamento della vecchietta anziani, in articolo mortis. Però mi è anche capitato diverse volte, devo dire con grande dispiacere, che questi simpaticissimi anziani entravano in questi gruppi, venivano contattati perché i loro figli li avevano abbandonati, cioè erano proprio soli. Quindi io le voglio solo dire che se noi guardiamo solo alla setta cattiva, il problema non lo affrontiamo come va affrontato. No, ma il suo approccio lo condivido in pieno, capire qual è il terreno di debolezza su cui poi naturalmente affonda il desiderio di andare nella setta. Allora, riportiamo un po' un attimo il punto su quello che noi abbiamo iniziato. Diciamo che è preponderante nei momenti di affiliazione a una setta il promettere una libertà e uno scatenamento degli istinti che in realtà nessuna religione ammette in maniera così esplicita. È una delle leve di attenzione e di fascino delle sette? Esistono veramente dei gruppi settari molto chiusi e molto anche pericolosi per le persone, all'interno dei quali il sesso assume un significato di tipo esoterico. Cioè, fare sesso non è semplicemente sfogare un istinto, ma è liberare dell'energia. E le persone che sono convinte di questo ritengono che questa energia possa dare loro dei poteri sovrumani. Quindi in questi gruppi si fanno delle pratiche sessuali che sono pratiche realmente pratiche esoteriche, guidate di solito da un capo che fa la stessa cosa, Il problema non è il sesso in sé, il problema è cosa si acquisisce attraverso l'energia sessuale, potere, energia e anche alcuni credono addirittura poteri magici, cioè potere di influenzare il mondo esterno. Sì, esiste tutta una branca delle scienze esoteriche, proprio esiste il tantrismo, esistono, diciamo, c'è una letteratura su questo, ma è chiaro che cogliendo le persone, guidandole, seguendole e avendo un aspetto coercitivo in un momento di forte intimità, è chiaro si acquisiscono delle chiavi di conoscenza di queste persone, è molto più facile manipolarle dopo. Sì, e poi si arriva al punto che alcune di queste persone sono talmente influenzate che ritengono veramente di poter passare attraverso i muri, oppure di poter influenzare con la loro mente una persona che hanno a 10 chilometri di distanza.